Si perde tempo e qui stringe il bisogno. No, no, no, no, no, no, no, no. Vo fare a modo mio, in mia camera andiam. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie, da questi zerbinotti innamorati, metterla in salvo sarà pensiero mio. Vengan danari, al resto son qua io. Mm. Ma bravi, ma benone, ho inteso tutto, e viva il buon dottore! Povero babbuino, tua sposa, e via, pulisciti il bocchino! Or che stanno la chiusi, procuriam di parlare alla ragazza. Eccola appunto! Ebbene, signor Figaro! Gran cosa, signorina! Sì, davvero! Mangerem dei confetti! Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro doman vostro marito! E via! Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro s'è serrato! Sì! Oh, l'ha sbagliato a te! Povero sciocco! L'avrà da far con me! Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate a un signore! Oh, un mio cugino, un bravo giovinotto! Buona festa, ottimo cor! Qui venne i suoi studi a compir, e il poverin cerca di far fortuna. Fortuna, e la farà? Oh, ne dubito assai. In confidenza, ha un gran difetto addosso. Un gran difetto? Oh, grande! È innamorato morto. Sì, davvero? Quel giovine, vedete, mi interessa moltissimo. Perbacco! Non ci credete? Oh, sì! E la sua bella, dite, abita lontano. Oh, no! Cioè, qui, due passi. Ma è bella? Oh, bella assai! Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, geniotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora. E il nome? Ah, il nome ancora, il nome! Ah, che bel nome! Si chiama? Ebbene, si chiama? Poverina! Si chiama R-O-R-O S-I-C Rosie.